Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e nove minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, parleremo chiaramente di Bruxelles e anche dell'Istat. Perché? Perché l'Istat oggi rivede leggermente al rialzo la crescita economica per quest'anno, meglio una revisione leggermente al rialzo che leggermente a ribasso, per dire alla catalano. Però insomma, invece che 0,9 dovremmo fare 1%. Il governo ancora stima un 1,1, Banca Italia 0,9, Unione Europea 0,9, insomma, al di là di questa leggerissima ritocco verso l'alto, che comunque piuttosto che niente è meglio piuttosto, come dicono a Milano, noi restiamo comunque staccati da altri paesi, lo segnala anche l'Istat, visto che la crescita media sarà a livello europeo dell'1,7%, quindi c'è un divario 1,7-1,8%. Però oltre a questo, l'Istat ci dice anche che rallenta però la spesa delle famiglie nel 2017 e quindi la disoccupazione migliorerà leggermente all'11,5% contro l'11,7% del 2016. Gli investimenti invece crescono più 3%. Dicevo, al di là dell'Istat però c'è Bruxelles di nuovo come soggetto, perché sono arrivate oggi le attese, si fa per dire, country specific recommendation, quindi le indicazioni che dà Bruxelles ai singoli paesi non hanno portato a precise indicazioni numeriche, né citano sanzioni eventuali in corso per l'anno in corso. Chiedono che l'Italia risolva il problema dei non performing loans, cioè delle sofferenze bancarie, rilanci la competitività, riduca il cuneo fiscale spostando la tassazione dei fattori produttivi ai consumi e in alcuni casi alla proprietà. È su questo che si è creato, diciamo, la frizione o comunque lo scambio di opinioni con l'Italia, perché Padoan ha detto che non è una buona idea cambiare l'IMU sulla prima casa, perché quando tu parli di spostare la tassazione dal lavoro, diciamo, dai fattori produttivi ai consumi e in alcuni casi alla proprietà, sta dicendo sostanzialmente di aumentare l'IVA e ripristinare la tassa, l'IMU sulla prima casa. Chiaramente l'Europa dice in questo modo puoi ridurre IRPEF e IRAP, cioè i fattori produttivi. Per carità, su questo abbiamo fatto decenni puntate negli anni scorsi, se sia meglio o peggio tassare i fattori produttivi e non i consumi. Allora, ovviamente uno potrebbe anche ragionare e dire, beh, se io tasso o aumento l'IVA su alcune fasce, su alcune categorie di prodotti e l'IMU per alcune categorie di abitazioni, non per tutti, faccio un'operazione più virtuosa rispetto a continuare a tassare in questo modo lavoro, chi lavoro lo dà e chi lavoro lo fa, e quindi il cuneo fiscale in primis. Il problema è che in questo paese, e in questo sospetto ce l'ho anch'io, se tu metti una tassa non abbiamo mai visto una corrispondenza netta con la tassa che viene levata, cioè noi ci siamo beccati l'IMU negli anni scorsi senza che venisse ridotta la pressione fiscale sul cuneo fiscale e l'IRPEF e quant'altro. Ecco poi il timore: in questo paese le tasse si mettono, ma non, poche volte abbiamo visto un'altra tassa che viene levata in sostituzione. E comunque ne parleremo in apertura, perché Bruxelles minimizza, dice, ma insomma attenzione, non abbiamo detto delle cose nuove. Moscovici ha detto, insomma, è anni che io raccomando di tassare la casa e ridurre la tassazione in busta paga per quello che riguarda l'Italia. Ma ripeto, Padoan ha detto che non è una buona idea. Parleremo poi anche della ricerca Censis sui consumi degli italiani e infine l'economia sostenibile, perché a Napoli è stato organizzato il primo festival italiano dello sviluppo sostenibile, 17 giorni di maratona, uno per ogni obiettivo, con oltre 200 eventi. Si è aperta oggi, c'era il ministro dei beni culturali Dario Franceschini, il ministro della politica agricola Maurizio Martina, il ministro del lavoro Poletti e il ministro della coesione territoriale Claudio De Vincenti. Si concluderà a Montecitorio il 7 giugno prossimo. Per quello che riguarda invece la borsa, attenzione oggi all'indice. Perché? Perché c'è uno stacco cedole, cioè l'indice è falsato. Se tu prendi il dato, Milano perderebbe l'1,15%, mentre Parigi è invariata, Francoforte è invariata, Londra più 0,40% e il Dow Jones più 0,34%. E in realtà, siccome lo stacco cedole di 20 società pesa per circa l'1,5% su Piazza Affari sarebbe positiva oggi, se si esclude lo stacco cedole. Sappiamo che il titolo poi si riposiziona dopo lo stacco cedole. I migliori in assoluto: Yux Net-a-Porter più 3,29%, Banca Mediolanum più 2, Saipem più 1,60, Banco BPM più 1,20, Enel più 0,90. Segnalo che tra tutti i titoli che vanno particolarmente male, la stragrande maggioranza ha staccato il dividendo. Unipolsai meno 4,70, Snam meno 4,70, Azimut meno 4,20, come Intesa San Paolo, sono tutte società che staccano le cedole. Generali meno 3,60, Italgas meno 3,30, Unipol meno 2,30, Atlantia meno 2,20, Leonardo meno 2,20, Exor invece la cedola, la dividendo non lo stacca e perde il 2,20%, Banca Generale invece ex dividendo meno 2%, ST Microelectronics non stacca cedola, meno 1,80, lo fa invece Bipper, meno 1,60, e anche A2A stacca la cedola, meno 1,50%. Allora, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, rapidamente le altre notizie in breve. Partiamo dall'economia internazionale. C'è un nuovo numero uno alla Ford, si chiama Jim Hackett, prende il posto di Mark Fields. Hackett è famoso, almeno da quello che abbiamo letto, nella capacità di trasformare il business e rilanciare i gruppi. Perché lo dico? Perché le azioni della Ford dal luglio 2014, da quando Fields diventò amministratore delegato, hanno perso il 30% del loro valore, tant'è che il produttore di auto elettriche Tesla, in termini di capitalizzazione di borsa, ormai ha superato anche Ford. Ford ha un massiccio piano di tagli, addirittura si ipotizza 20.000 posti di lavoro in meno a livello globale, e un obiettivo di ridurre i costi già da quest'anno per 3 miliardi di euro. Ma c'è un altro colosso dei cieli questa volta, e non era l'Italia, anche perché colosso l'Italia con tutto il bene che le vogliamo non può esserlo, che si appresta a intervenire sui costi, è Cathay Pacific. Ora, Cathay Pacific è considerata, assieme a altre compagnie del sud-est asiatico e della penisola araba, penso a Emirates in primis, Qatar, Cathay Pacific, Singapore Airlines, erano un po' gioielli anche come servizio, gioielli asiatici e gioielli medio orientali. Però potrebbe tagliare 600 posti di lavoro, è la prima volta infatti in 8 anni che il vettore ha chiuso i bilanci in rosso. Hong Kong soprattutto interessate, altri 400 dipendenti. È la prima volta da 8 anni, e non deve fare specie, chiusa in rosso Cathay quando, nel 2009, dopo lo shock, diciamo, lo scoppio della crisi nel 2008. E su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, oggi a firma del vice direttore Alessandro Plateroti. E da questo punto di vista ricordo che sono trasmessi anche su RDS. Sì, giustamente mi avete detto: staccano il dividendo, non la cedola. Avete ragione, mi sono corretto. La cedola oggi viene staccato, infatti, diciamo in gergo ex dividendo. Mi riferisco alla dicitura sui terminali e al fatto che Milano, per via dello stacco dei dividendi, perda circa 1,5% più di quello che dovrebbe, e quindi sarebbe in realtà positiva di uno 0,40-0,35%. Comunque, Cathay Pacific, 100 secondi di Radio 24. 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. Tempi duri per le compagnie aeree e non solo per l'Italia, un po' in tutto il mondo. Causa rischio terrorismo ed altre tensioni geopolitiche, il traffico aereo non solo è sceso, ma soprattutto sono esplosi i costi. Quelli che hanno affondato l'Italia, sostanzialmente, ma quelli che stanno mettendo in ginocchio altre compagnie aeree, a cominciare per esempio dalla Cathay Pacific, il colosso del Pacifico che ha tagliato il 25% dei dipendenti, ma non cominciando dai piloti e dagli assistenti di volo, ma addirittura dai dirigenti, accusandoli sostanzialmente di non aver saputo tenere sotto controllo le dinamiche dei costi. Ma al di là dei casi specifici, un punto è chiaro: per la nostra compagnia trovare un partner in questo momento sarà molto difficile, soprattutto per un motivo. Nessuno lo vuole ammettere, ma dire che arriverà un'iniezione di 600 milioni di euro dal governo per rimettere in sicurezza, ma che poi non basteranno, farà sì che tutti i possibili pretendenti aspetteranno che finiranno quei soldi per poter tornare a trattare. Addirittura in America c'è chi dice che potrebbero essere interessati ad acquistare semplicemente il marchio, chiudendo tutto il resto. Comunque sia, una cosa è certa: alla vigilia dell'estate l'Italia è nuovamente nella confusione sul traffico aereo, in un momento in cui tutti i cieli del traffico aereo sono molto confusi. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Ancora oggi Angela Merkel della Germania ha detto, insomma, ha respinto le critiche al surplus commerciale tedesco, ritenuto da molti troppo alto. Dipende da due fattori: l'euro è troppo debole a causa della politica della Banca Centrale Europea e così le merci tedesche diventano economiche. Inoltre il prezzo del petrolio è molto basso. Boh, il prezzo del petrolio è a 50 dollari, non è alto, ma dire molto basso, insomma, no. E poi che la Germania, che per la Germania l'euro sia debole a 1,1 più che per altri paesi lo sappiamo, ma attenzione, il governo non è vero che non può, il governo tedesco potrebbe fare un bel piano di investimenti, e quello che si chiede è anche di carattere infrastrutturale, visto che ha il deficit a zero e ha delle infrastrutture che necessitano anche in Germania di investimenti. Quindi a mio avviso quella della Merkel è almeno parzialmente una scusa. Intanto c'è un gruppo di lavoro franco-tedesco sotto una guida comune con un'ambiziosa roadmap, quindi programma ambizioso per lanciare proposte e iniziative bilaterali, quello che hanno annunciato oggi, insomma, a Berlino il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble e il ministro francese dell'economia Bruno Le Maire, alla sua visita all'insediamento nella capitale tedesco, mentre capitale tedesca, mentre Gentiloni, dopo aver incontrato il premier francese Macron, ha detto che l'Italia e la Francia intendono lavorare insieme su una politica monetaria europea che vada nella direzione di un'unione fiscale e monetaria. Dovremmo investire questo capitale di fiducia su politiche migratorie comuni, sullo sviluppo della nostra unione monetaria sempre più verso una unione fiscale, un'unione bancaria. Non sarà un processo immediato, ma l'importante è cominciare e andare nella giusta direzione. Su regole comuni che l'Italia intende rispettare e che devono sempre più incoraggiare la convergenza e non le differenze tra i diversi paesi europei. Sono certo che l'Italia e la Francia lavoreranno dunque insieme per un'Europa più forte e più vicina ai cittadini. E veniamo ai temi che riguardano il nostro andamento economico e il confronto con l'Europa. Dicevamo dell'Istat sulle stime sul PIL italiano 2017 all'1%, però segnalo che oggi l'OCSE registra un andamento dei primi tre mesi allo 0,4% come crescita contro lo 0,7% del trimestre precedente. In realtà non cambia nulla per l'Italia, nel senso che la nostra crescita resta invariata allo 0,2%, rallenta in Francia 0,3 contro 0,5% del trimestre precedente, rallenta fortemente in Gran Bretagna 0,3 contro 0,7%, cresce in Germania invece il congiunturale trimestre su trimestre e in Giappone. Su base annua, l'avevamo già ricordato la scorsa settimana, comunque l'Italia e la Francia hanno la crescita più bassa primo trimestre sul primo trimestre 2016, lo 0,8%. Nel giorno in cui l'Istat appunto ha rivisto le prospettive leggermente a rialzo, però ricorda che c'è e resta il divario tra crescita economica italiana e crescita economica europea, e poi segnala come i consumi saranno positivi anche nel 2017 ma in rallentamento rispetto al 2016. La disoccupazione migliora moderatamente, dall'11,7% si scenderà all'11,5%, crescono gli investimenti più 3%. Il commento a questi dati lo ha fatto oggi il Premier, il Presidente del Consiglio Gentiloni, da Ariccia. È un, direi, un messaggio di ottimismo che viene da un percorso come questo, e lo voglio sottolineare in una giornata in cui sottolineo anche altri messaggi di ottimismo. Vedo che ci sono degli aggiustamenti in rialzo delle previsioni di crescita del nostro Paese. Si dirà l'Istat l'ha aggiustati solo di uno 0,1%, ma qui si vive di aggiustamenti progressivi. Sappiamo che le condizioni di crescita del nostro Paese, che finalmente ci sono graduali. E il fatto che in una giornata come oggi si registri che questa gradualità ha una spinta verso l'alto è un fatto che ci incoraggia ad affrontare a testa alta le sfide che la nostra economia avrà nei prossimi mesi e che io penso potrà affrontare in modo stabile e con fiducia nel futuro. Oh, a me ha fatto così un po' sensazione, impressione sentire il Presidente del Consiglio Gentiloni che dice sì, è vero, è solo uno 0,1, ma qui viviamo di 0,1. Io vorrei non vivere di 0,1, fermo restando che è meglio uno 0,1 in più che uno 0,1 in meno. Allora, sui dati dell'Istat, intanto vorrei ascoltare, lo ringrazio per averci raggiunto in collegamento, perché parleremo di dati Istat ma parleremo anche dell'Europa. Francesco Daveri, docente di politica economica all'Università Cattolica di Piacenza, buonasera professore. Buonasera. Partiamo dai dati nostri Istat, quindi rivista leggermente al rialzo il PIL, i consumi positivi ma rallentano, la disoccupazione migliora lentamente dall'11,7 all'11,5%, crescono gli investimenti. Dunque, qui quello che stiamo vedendo nel dettaglio dei dati del primo trimestre è il fatto che siccome il reddito disponibile non è riuscito ad aumentare nel corso del trimestre, come anche nel corso del 2016, non c'è stata un'accelerazione, di fatto vengono al pettine i nodi, ovvero sia gli 80 euro e le altre insomma, misure di bonus, hanno prodotto dei risultati estemporanei e infatti i consumi sono ripartiti, però come non si può andare avanti a colpi di bonus, a un certo punto quando non ci sono più i bonus il reddito disponibile aspetta tagli veri di tasse che, come una riforma dell'IRPEF che riduca il carico fiscale o un mercato del lavoro che decolli in un modo un po' più rilevante e che porti quindi la disoccupazione giù rispetto all'11,5% dove è stagnante da molti mesi a questa parte. Quindi la mia interpretazione del dato dei consumi è questo. Sì, io non ho capito, ma veramente non l'ho capito perché non ho trovato il dato, questi investimenti che crescono, perché a noi risultavano gli investimenti pubblici non solo non crescessero ma fossero anche nel 2016 sicuramente in calo di circa il 4%. Vorrei capire perché l'Istat dice gli investimenti crescono del 3%, beneficiando anche degli effetti positivi sul mercato del credito derivanti dal proseguimento della politica monetaria espansiva della Banca Centrale Europea, cioè il fatto che i tassi siano a zero e Draghi continui a comprare titoli di Stato fa crescere gli investimenti. Mi sembra di capire quelli privati. Sì, certo, perché il costo del credito che in qualche modo si è ridotto nel corso del tempo perché grazie appunto agli acquisti di Draghi. E qui abbiamo che in qualche effetto anche probabilmente le misure di sostegno all'investimento, che quest'anno hanno il nome di Industria 4.0, ma che l'anno scorso erano comunque altre forme di incentivazione, qualche risultato l'hanno lasciato, più probabilmente anche l'acquisto di automobili da parte delle aziende, quelle sono, e quindi le autovetture, insomma, i mezzi di trasporto sono andati bene nel, per le famiglie, sono andati bene per le imprese. Per le famiglie sono consumi durevoli, per le imprese sono investimenti, quindi è questa parte che credo sia andata bene. E poi una qualche forma di ammodernamento dell'economia che sta avvenendo, e questo va sotto la voce investimenti in macchinari e attrezzature. E dopo il meteo invece andremo sul fronte europeo, quello che insomma, consiglia l'Europa. Qualcuno mi dice, state dicendo una marea di cavolate, uso un altro nome. No, guardi che, allora, che gli investimenti privati possono essere ripartiti va bene, quello che però manca all'appello sono gli investimenti pubblici, e lo diciamo anche perché il debito non ha avuto questo calo tale da dire ok, investi meno soldi pubblici perché riduci il debito. No, il debito è sempre lì, continuiamo a spendere sempre troppi soldi per i beni intermedi della pubblica amministrazione, e mancano gli investimenti pubblici che da quando io studio so che servono, non dico come volano, ma spesso come apripista anche per quelli privati. Parliamo invece di cosa vorrebbe l'Europa, cioè che tassassimo di più, tassassimo le case, anche la prima casa, o aumentassimo l'IVA, cioè portassimo la tassazione dai fattori produttivi, come si chiamano in primo luogo, busta paga del lavoratore, ai consumi, quindi IVA e IMU sulla prima casa. La risposta di Padoan di oggi non mi sembra una buona idea, ma affrontiamo il tema dopo il meteo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta Focus Economia. ...17:35, intanto è arrivata una buona notizia, nel senso che via libera dalla Commissione Bilancio della Camera all'accelerazione dei rimborsi IVA per attenuare gli effetti dello split payment sulla liquidità delle imprese. C'è un emendamento bipartisan che prevede l'eliminazione di alcuni passaggi intermedi per il rimborso in conto fiscale, in modo da ridurre da 90 a circa 65 giorni i tempi per ottenere l'accredito IVA. Nuova procedura semplificata sarà operativa dal gennaio 2018. Invece veniamo al querel tra Roma e Bruxelles. Bruxelles nelle cosiddette country specific recommendations ha detto, insomma, tra le altre cose, non ha voluto dare cifre, ha detto dovete risolvere il problema delle sofferenze bancarie, non performing loans, rilanciare la competitività, ridurre il cuneo fiscale. E per far questo dovete spostare la tassa, dovreste, sarebbe auspicabile spostare la tassazione dai fattori produttivi ai consumi e in alcuni casi alla proprietà, e quindi IVA e IMU. Sentiamo Moscovici sull'Italia, il commissario degli affari monetari Pier Moscovici, dicendo che insomma rivaluteremo la situazione in Italia, la situazione italiana in autunno. Per quanto riguarda la situazione dei conti pubblici italiani, per il 2016 è stata concessa una considerevole flessibilità all'Italia. La nostra analisi ex post ci ha consentito di confermare questo accordo, compreso quello che va sotto il nome di clausola degli investimenti. Questa è una buona notizia per l'Italia. Per il 2017 ci sono state le misure complementari che sono state adottate per lo 0,2% del PIL, e ciò ci permette di riconoscere una conformità al patto per quest'anno, e quindi non intraprendiamo alcun passo procedurale in questo momento. Per il 2018 è chiaro che la nostra valutazione degli sforzi da compiere dovrà tener conto di diversi fattori che consentono di avere finanze pubbliche sostenibili e un consolidamento di bilancio accettabile. Noi ci stiamo muovendo in un contesto di ripresa abbastanza particolare, con un'inflazione piuttosto bassa, e questo è un problema che non riguarda solo l'Italia, ma molti paesi dell'Eurozona. In questo scenario la Commissione vuole utilizzare il margine di valutazione propria. Tenuto conto della situazione ciclica, in Italia continueremo a seguire gli ulteriori sviluppi. Rivaluteremo la conformità dell'Italia con il criterio del debito sulla base delle nostre previsioni di autunno, che includeranno anche informazioni nuove sull'esecuzione del bilancio 2017 e anche sulla bozza di bilancio del 2018. Come avete sentito, non abbiamo menzionato delle cifre per lo sforzo di aggiustamento. Oggi direi che ci sono buone notizie. E la risposta è arrivata a stretto giro oggi dalle richieste di Bruxelles. La tassa sulla prima casa cancellata nel 2015 è stato un passo indietro, dice la Commissione europea, nel processo di ottenere una struttura tributaria più efficace. Il ministro Piercarlo Padoan, arrivando all'Eurogruppo a Bruxelles, dice: non è una buona idea cambiare l'IMU sulla prima casa. È una delle tante proposte, le riforme fiscali vanno viste nel loro insieme e io direi che cambiare idea su una tassa che è stata appena cambiata da pochi mesi non è una buona idea. Grazie anche a Adriana Ceretelli che ci ha appena raggiunto in collegamento da Bruxelles, dove è editorialista del Sole 24 Ore. Adriana, vorrei partire da te e poi sentire anche il professor Daveri di nuovo su questo. In realtà Moscovici ha detto: ma insomma, questa cosa io la dico dal 2015-2016, non c'è nulla. Nulla di nuovo, e allora perché ritirarla fuori? Questa delle tasse? Sì, IMU. Non ho capito il soggetto. Ah, sì, sì. IMU e IVA. Perché secondo me allora il clima è cambiato e probabilmente cambierà ulteriormente in Europa, però la ricerca dell'equilibrio tra stabilità e flessibilità e crescita è una ricerca molto difficile, soprattutto per un paese come l'Italia, che come è noto non fa scendere più di tanto la spesa pubblica. Allora se non scende la spesa inevitabilmente non può diminuire il carico fiscale, a meno che non aumenti la crescita, cosa che non avviene. E quindi naturalmente non c'è che, siccome il carico fiscale è molto alto, non c'è che da spostare gli oneri sulle categorie e quindi si torna sempre alla carica sulla questione delle proprietà, le case eccetera eccetera. Adesso... perché Bruxelles non ha altre armi in questo momento, visto che si ritiene che la flessibilità oggi sia dovuta, visto il contesto generale dell'economia italiana, oltre che diciamo quello europeo, nel senso che Moscovici è stato il primo a dire che la domanda in Italia che l'inflazione in Italia è debole perché la domanda è debole e quindi non si vuole naturalmente penalizzare ulteriormente i consumi che crescono poco. Sì, ecco, vorrei ricordare a chi mi scrive che in questo caso non sono né sanzioni né sono raccomandazioni, diciamo. Bruxelles di più non può dire, no? Sì, queste sono le raccomandazioni nell'ambito del cosiddetto semestre europeo, che è diciamo una sorta di governo europeo che si è istituito con le ultime riforme del patto di stabilità, che tende a coordinare di più tra di loro le economie dell'Eurozona, ma con questo naturalmente ci sono due scenari possibili di interventi di Bruxelles. Noi siamo nel cosiddetto scenario preventivo, che è quello in cui noi non siamo in deficit eccessivo come altri paesi, per esempio è stata la Francia, eccetera. Certo. E quindi naturalmente le raccomandazioni hanno sì un valore, ma non sono punitive virtualmente come potrebbero essere. Però ricordiamoci che noi abbiamo sempre il debito e su quel lato del debito siamo sempre esposti a possibili sanzioni, solo che in questo momento c'è un clima abbastanza morbido, ma non solo nei confronti dell'Italia, un po' nei confronti di tutti, perché ci si rende conto che l'eccesso di rigore non ha pagato alla fine, no? Nel senso che ha penalizzato la crescita, ma non è che abbia fatto ripartire più di tanto l'economia. Sono state le riforme, i paesi che hanno fatto veramente le riforme, che sono tornati a crescere alla grande, tipo la Spagna, tipo l'Irlanda, ma non per esempio la Francia, che di riforme ne ha fatte poche, e non parliamo dell'Italia. Sì, tra l'altro su questo devo dire che Moscovici ha anche detto che l'Italia non deve lamentarsi della Commissione Europea perché la Commissione ha dato prova di flessibilità intelligente e comprensiva, l'ha definita, e poi che ha chiesto anche all'Italia di ridurre i tempi della giustizia civile, però ha detto che non vi sono obiezioni sulla manovra bis, la manovra da 3,4 miliardi ha rispettato tutte le regole, conferma che le misure di bilancio addizionali richieste per il 2017 sono state prese e che quindi non è nessun passo ulteriore è necessario. Professor Daveri, il tema della, insomma, che tocca Bruxelles, che tira fuori Bruxelles, è un tema che i latini avrebbero chiamato vexata questio, cioè chi dice guarda devi ridurre le tasse su chi il lavoro lo dà e lo fa, e quindi per compensare un minor gettito devi tassare di più l'IVA su alcuni prodotti magari nella fascia più alta e la casa al netto degli immobili di poco pregio, di condizioni economiche critiche, e noi, e chi dice l'opposto, noi abbiamo fatto il contrario. L'ultima eliminazione dell'IMU, l'IMU quando è stata eliminata portava quasi 32 miliardi nel 2014. In realtà il problema è che tra IMU, TASI, TARSI si era arrivati tra il 2011 e il 2014 da un gettito di 15 miliardi, erano 9 di ICI e 6 di TARSU, fino appunto a 32 miliardi, di cui 19 di IMU, 4,6 di TASI e 8 di TARI. Cioè le tasse sulla casa erano raddoppiate praticamente. Intanto un suo giudizio, poi dopo il traffico, intanto ringrazio anche Adriana Ceretelli che ci deve lasciare, dopo il traffico le chiederò invece sul fronte, insomma, lo scambio tra tasse sui fattori produttivi e tasse sui beni di possesso. Professore. Ma dunque, come diceva anche Adriana Cerretelli, qui il problema di fondo è che non siamo riusciti a ridurre il carico fiscale nel suo complesso in modo più sostanzioso, che è quello anche che dicevo prima, cioè di fatto se non scende di più l'ammontare di soldi che nell'insieme settore privato, famiglie e imprese devono dare allo Stato quando poi devono quelli che pagano le tasse, e allora poi è inutile meravigliarsi che di fatto poi non ci sia la crescita, che la crescita abbia dei numeri decimali. Quindi questo è all'interno di questo, ma insomma mettersi a disquisire come fa anche Bruxelles su meglio tassare un cespite piuttosto che l'altro non è una cosa che possa scaldare molto gli animi di nessuno, cioè ci sono ragioni, ci sono state ragioni politiche per ridurre la tassazione sulla casa, sulla prima casa, però non è che tenendola in piedi o rimettendola e invece detassando un po' di più i fattori produttivi improvvisamente la crescita ripartirebbe, perché tanto l'onere complessivo delle tasse rimarrebbe quello. Quindi in un modo o nell'altro, grizza di razza, se tasse nell'insieme il settore privato le deve pagare, quindi magari facciamo no, un alcuni po' più ascoltatori mi, alcuni ascoltatori mi segnalano un tema di equità, ossia adesso l'IMU è rimasta su 62.000 cosiddette prime case, perché sono castelli, case signorili, ville. Qualcuno dice, beh, però il fatto di aver elevato l'IMU, la tassa sulla casa, anche a chi ha case che non sono castelli o ville, ma sono comunque case di grandissimo pregio, è socialmente ingiusto, mentre abbiamo una tassazione altissima per quello che riguarda i redditi da lavoro, anche quando sono redditi, diciamo, non da miliardari, non da persone ambienti, cioè, anche quelli sopra i 100.000 euro hanno una tassazione pesantissima, anche a 100.000 euro lordi. Per cui su questo Daveri non c'è un problema anche di equità? Sì, naturalmente il sistema fiscale italiano è iniquo, ma in tanti modi, cioè allora uno dei modi di farlo è più riformare l'IRPEF, secondo me riducendo le aliquote, magari eliminando alcune delle detrazioni e deduzioni, almeno questa è una cosa di cui le famiglie potrebbero fare i conti più facilmente, invece fare questi scambi tra differenti tipi di tassazione, cioè detassare il lavoro per ridurre per aumentare, cioè finanziando, ma bisognerebbe aumentarla molto la tassazione sulla casa per poter detassare il lavoro in un modo che sia sensibile, secondo me non produrrebbe i risultati che desideriamo. Ecco, questa è la cosa. Oltretutto il mercato immobiliare era andato male per tanti anni, ecco, ricordiamo, è vero che detassare la prima casa non è detto che sia il modo migliore per rilanciare il mercato immobiliare, però quando scendono i prezzi del 15% in pochi anni o anche di più, insomma, questi sono numeri che indubbiamente non è che possiamo far finta che non esistano, perché anche il mercato immobiliare si tira dietro tanti lavoratori, tanta gente che alla fine del mese deve continuare a portare a casa lo stipendio. Allora, grazie anche al professor Daveri. Andiamo adesso sul traffico e poi parliamo invece di, restiamo sul tema dei consumi. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Breaking news. È morto Nicky Hayden, il 36enne pilota Centauro, ex campione di MotoGP del 2006, rimasto vittima di un incidente in bici mercoledì scorso nel Riminese. Focus Economia. Allora, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Sì, purtroppo abbiamo dovuto dare questa brutta notizia nelle breaking news. Nella breaking news. Allora, la borsa oggi, stacco dei dividendi a Piazza Affari, come sempre avviene in questi casi, viene falsato l'andamento complessivo. Vi do le altre prime e poi chiederò a Radio Coro il dato definitivo. Londra più 0,30, Parigi invariata, Francoforte anch'essa invariata meno 0,1%, euro quota 1,12 dopo le parole della Merkel è un po' cresciuto. Paolo Paronetto, Radio Coro sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, come è andata Milano, visto che staccavano i dividendi, 20 società hanno? Sì, è uno stacco cedole che ha pesato sul FTSE MIB per l'1,54%, e quindi diciamo che la performance depurata da questa zavorra è di più 0,39% per Piazza Affari. Quindi avrebbe chiuso con un rialzo dello 0,39% invece che un meno 1,15%, sì, come vediamo, sì, dal valore nominale. Esattamente. Sì, che è più o meno quello che calcolavamo prima. Poi è difficile su ogni titolo, non so se avete già fatto il calcolo in questi minuti, capire quanto pesa, perché adesso cito titoli che hanno staccato dividendo: Azimut meno 4,30, Unipolsai meno 4,20 come Snam, e Intesa San Paolo il 3,40 l'ha perso sempre con lo stacco di dividendo Generali, 2,80 Leonardo e Italgas, Atlantia meno 2, Banca Generali meno 1,90, Viper meno 1,70, Unipol meno 1,70, sempre dopo lo stacco del dividendo. Invece chi non staccava dividendo, Exor ha perso e basta, secco, il 2,37%, Fiat Chrysler l'1,60 e anche Case New Holland l'1,60. Chi è andato bene e non staccava il dividendo: Hughes Net-a-Porter più 3%, Banca Mediolanum più 2,1%, Saipem più 2%, Banco BPM più 1,30%, come Terna l'1% lo guadagna invece Enel. Allora, gruppo Fiat, Hughes Net-a-Porter, e poi se avete un dato complessivo, se già ce l'avete, sugli altri titoli che staccavano dividendo. Beh, iniziamo da questo, ti posso dare alcuni calcoli fatti così un momento al volo. Intesa San Paolo, ad esempio, che qua vediamo in calo del 4,14, avrebbe fatto un guadagno, sarebbe salito del circa il 2,5%, depurando l'andamento dallo stacco del dividendo. La peggiore qui vediamo Azimut meno 4,32, sarebbe in rialzo invece anche lei, un rialzo contenuto di circa mezzo punto, ma sarebbe stata una performance positiva anche la sua, considerando lo stacco del dividendo. Per quanto riguarda invece il gruppo Fiat, che come dicevi tu è in calo netto, diciamo così, e prosegue l'andamento altalenante degli ultimi giorni, legato ovviamente alle incertezze e ai rischi su possibili sanzioni per quanto riguarda le emissioni diesel. Il titolo di recente ha alternato cali legati a questo timore a rialzi dovuti alle possibilità di un accordo con l'amministrazione americana, in particolare su questo fronte. Oggi diciamo che ha prevalso il fronte delle paure e delle incertezze. E in generale, ricordiamo anche, è aumentata l'incertezza politica nei paesi della periferia europea, del sud Europa, e dopo la vittoria di Sanchez alle primarie del PSOE e del Partito Socialista Spagnolo, che aumentano i rischi sulla tenuta del governo spagnolo, e anche questo comunque ha alimentato, diciamo, un clima decisamente prudente oggi in borsa. Safebag, esco dal listino principale, vado sui migliori e peggiori. Ha fatto il 20%, il peggior titolo è Invest, meno 4,60, Saras meno 4,40 Azimut, appunto, ma attenzione per lo stacco dei dividendi di cui abbiamo parlato. Ma dicevo, Safeback. Sì, è stata tra le migliori di giornate, per gran tempo la migliore, poi superata al secondo posto, più 19,46, qui ha vinto una gara e per l'offerta dei suoi servizi all'aeroporto internazionale di Varsavia, una gara che tra l'altro dà un contratto a tempo indeterminato, quindi non ha una scadenza e quindi naturalmente è una bella spinta per il business della società che è stata premiata oggi in borsa. Grazie a Paolo Paronetto, andiamo sul GR24, poi torniamo in diretta. Il segnale orario vi è offerto da Axerta, indaga, documenta, accerta, www.axerta.it. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vedo molti messaggi al 349-238-6666 sul tema IVA, aumento dell'IVA, ritorno dell'IMU. Sono, diciamo, consigli che da Bruxelles, a cui ha già risposto il ministro dell'economia, ritengono una cattiva idea il ritorno dell'IMU. Poi uno lo può pensare come vuole, alcuni sono a favore, altri contrari, però vorrei girare la domanda, immaginando in parte già la risposta, a chi vive di consumi. Perché lo dico? Perché la settimana scorsa non ce ne siamo riusciti a occupare, ma il Censis ha pubblicato una ricerca sul cosiddetto carrello alimentare, carrello della spesa, in un periodo in cui l'inflazione sta rialzando un po' la testa. Per ora però quella che vediamo, ahimè, è inflazione non buona, ripeto per l'ennesima volta, non dovuta a consumi più alti e quindi tensione sui prezzi, ma inflazione dovuta ai beni importati e quindi ai beni energetici in primo luogo. Il Censis ha scoperto che nel carrello della spesa stiamo tagliando tante cose, ma non stiamo tagliando, lo dico sorridendo, il vino. È un must, cioè una conferma da questo punto di vista per 28 milioni di italiani. Cambia lo stile dei grandi bevitori, cioè di chi dichiara di consumare oltre mezzo litro al giorno. Sono passati dal 7,4 nell'83 al 2,3 nel 2016, e poi un'impennata nelle scelte di acquisto legate alla qualità, al 93%, mentre il prezzo guida gli acquisti di vino solo nel 7% dei casi, e una ripresa della spesa interna più 9% per quello che riguarda gli italiani, che sono diplomati al 33%, laureati nel 40% dei casi, un atteggiamento più maturo orientato alla qualità. I millennials sono consumatori meno fedeli. Dovrebbe tutto questo, con una provocazione, potrei dire: beh, ma se il consumatore italiano si orienta più alla qualità e meno alla quantità, è disposto anche a spendere, l'IVA non dovrebbe preoccupare i produttori di vino italiani. Allora ringrazio per averci aggiunto in collegamento il presidente, appena riconfermato presidente, venerdì scorso, di Federvini, Sandro Boscaini. Buonasera Boscaini. Buonasera Sebastiano, tutto bene? Bene, grazie. Allora senti, perché insomma io sono un consumatore seriale, anche se non più giovane, ma il problema se questo è il posizionamento del consumatore italiano, non dovreste avere problemi nel caso di un aumento dell'IVA sui vini magari di maggior pregio? Chiaramente c'è un limite a tutto. Diciamo che nella condizione attuale, con questa IVA, che non è peraltro un'IVA bassa, anche per il vino abbiamo l'IVA normale, non è che sia aiutato al giorno d'oggi il vino, i consumi reggono, anche sono in piccola regressione quantitativa, passiamo da 61 litri nell'83 a 56 10 anni fa, oggi siamo a 52, però devo dire d'altra parte c'è appunto un bere meglio, e vuol dire anche la propensione a pagare di più per la qualità. Quello che invece è calato veramente, come lei ha detto prima Sebastiano, è il bevitore, diciamo, pesante, quello che beveva più di mezzo litro al giorno, che passa dal 7,4, appunto a 10 anni fa era 4,2, adesso è a 2,3, per cui Ecco, c'è effettivamente questo interesse per il valore non solo alcolico e non solo, chiamiamolo così, di alimentare del vino, ma c'è un valore che è quello che si riguarda il senso reale del valore, percepito del valore del vino, sì, che va oltre il valore reale del prodotto. Sì, no, stavo facendo un calcolo, visto che sono scesi i consumatori, i grandi bevitori, cioè chi beve oltre mezzo litro al giorno, dal 7,4% dell'83 al 2,3% del 2016, la riflessione che faceva, li conosco tutti io, nel senso che la percentuale si è ridotta, mentre qualcuno mi dice si sente, per carità capisco la battuta, che sul fatto che io consumi vino e qualcuno mi dà del conflitto di interesse, è vero. È vero, perché consuma anche il Valpolicella, non necessariamente quello che produce Masi, ma anche il Valpolicella. Tornando invece a noi, però mi dica un'ultima cosa, Boschini, voi temete l'aumento dell'IVA, ma quando, come in molti casi, esportate il 70, 80, 90%, che vi cambia? Sì, beh, ovviamente questo sono casi, devo dire che non è un caso unico, per esempio nella mia azienda, ma casi di molti miei colleghi, che superano il 70% e arrivano all'80, 85, a volte anche il 90% di export. Ecco, in questo caso siamo ancora più liberi rispetto a una problematica che è ovviamente una problematica italiana, anche se devo dire ognuno dovrebbe essere anche profeta in patria sua, ecco. Ma l'export non c'è dubbio che ci dà delle soddisfazioni molto importanti. Il vino italiano ha acquisito uno status che è sicuramente secondo dopo i francesi, ma ci si chiede anche perché deve essere sempre secondo dopo i francesi. E qua il problema è un altro. Il problema ha a che vedere anche con la cultura d'impresa. Cioè noi molto spesso guardiamo al business nella sua totalità, alla quantità di bottiglie che esportiamo, ma il valore del prodotto finito a volte è venduto solo per remunerare l'uva, e non è così. La sfida vera è quella di aumentarne il valore, e allora assieme al valore del prodotto c'è anche il valore percepito, che è alto, perché sono alti gli investimenti che sono stati fatti dal pubblico e dal privato. Pensiamo a tutto il sistema delle DOC, a tutto il sistema dei controlli, sì, a tutto il sistema anche che gira attorno al vino, la cultura del vino e del territorio. È chiarissimo, è che non posso rifare Vinita di Boscaini, però mi dica un'ultima cosa, avete qualche segnale di negativo dagli Stati Uniti, nel senso che la prima preoccupazione di tutto il nostro mondo dell'export quando è arrivato Trump è: oddio, metterà i dazi. Mi sembra che però le notizie non ne siano arrivate, ma voi avete già qualche segnale, diciamo, di rallentamento? Così, No, devo dire non finora, non c'è stato segnale. Il mercato degli Stati Uniti è un mercato molto importante, è il primo mercato per il vino, certo, italiano dal punto di vista del valore, e devo dire che anche è un mercato in continua, seppur lenta, crescita. Ecco, chiaramente la preoccupazione c'è, ma non c'è nulla in questo momento che ci faccia pensare che a breve potremmo avere di difficoltà. Speriamo di no. Allora, in bocca al lupo per il suo nuovo mandato anche a Sandro Boscaini, neo presidente, ho confermato. Di Federvini, qualcuno mi chiede mi fa una domanda, insomma, ma se l'IVA calasse i negozianti abbasserebbero i prezzi o li terrebbero a livello pre-IVA? Ma se è fatto una domanda per dire alla Marzullo, si dia una risposta. Io prezzi in calo non li ho mai visti, prezzi fermi sì, prezzi in calo perché riduci l'IVA non li ho mai visti. Traffico. Focus economia. e 18 minuti. Sorrido perché qualcuno mi scrive: ma come, mezzo litro al giorno è un consumatore pesante di vino? È un quarto di vino di litro a pasto. Ho capito, non l'ho fatta io la classifica del Censis. Consumatore pesante, non so se sia un giudizio di valore o un giudizio di fatto, cioè sul fatto che è pesante chi consuma come consumo. non poi bisogna capire che cosa beve, se beve Amarone, beve Prosecco, se beve Brunello o beve vini più leggeri, cosa volete che vi dica? C'è qualcuno che mi dice posa il fiasco Barisoni, io non uso il fiasco, però poi dipende molto dalle abitudini anche, mezzo litro a giorno in Friuli, Veneto, Piemonte, forse insomma, sono considerati consumo da pasto, appunto. Allora, a Napoli oggi si è aperta la prima giornata di una maratona di 17 giorni, una per ogni obiettivo che si è posto, il primo festival italiano dello sviluppo sostenibile. Oltre 200 eventi, questa mattina c'era presente anche il ministro dei beni culturali Franceschini, quello delle politiche agricole Maurizio Martina, il ministro del lavoro Poletti e il ministro della coesione territoriale Claudio De Vincenti. Si concluderà a Montecitorio il 7 giugno alla presenza delle più alte cariche dello Stato. Il titolo è Nessuno deve essere lasciato indietro. Questo è l'impegno che hanno assunto nel settembre 2015 193 paesi sottoscrivendo l'agenda 2030, appunto 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile. Il primo festival dello sviluppo sostenibile, il portavoce, diciamo così, è l'ex presidente Istat, l'ex ministro del welfare, attualmente docente a Tor Vergata, professore Enrico Giovannini, buonasera. Buonasera. È molto bello l'obiettivo, lo sviluppo sostenibile, si figuri, però leggevo i punti. No? Primo punto, porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo. Secondo punto, porre fine alla fame e raggiungere la sicurezza alimentare. Poi vado avanti, terzo punto, assicurare la salute e il benessere per tutti, per tutta l'età. Settimo punto, assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici affidabili, sostenibili e moderni. Il sesto è garantire la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie. Col massimo rispetto, Giovannini, ma non sono dei punti un po' troppo alti, un po' utopistici? Certo. Perché no, lei ha letto solo gli obiettivi, non ha visto i 169 target che ci dicono, ad esempio, che l'Italia si è impegnata a ridurre drasticamente il numero dei giovani che non studiano e non lavorano entro il 2020, sono 2,2 milioni, oppure tutte le città italiane si sono impegnate, o meglio il governo si è impegnato per loro, ad adottare entro il 2020 i piani per l'adattamento ai cambiamenti climatici che sono in corso, oppure una riduzione drastica dei 4,6 milioni di poveri assoluti che abbiamo in Italia entro il 2030, cioè una volta capito che lo sviluppo sostenibile non è solo una questione ambientale, ma ha dimensioni molto rilevanti, economiche, sociali e anche istituzionali, i governi hanno provato a darsi degli obiettivi realistici, perché tanti paesi si sono indirizzati in questo campo, e le faccio solo un esempio, il nuovo presidente francese non ha creato un ministero dell'ambiente, ma ha creato il Ministero della Transizione Ecologica e Inclusiva, cioè un cambiamento radicale nel modo di fare energia per sviluppare lavoro che appunto riduca le disuguaglianze sociali. L'Italia, in questi 17 punti, è nella zona rossa, cioè messa male, in 7 obiettivi: educazione, occupazione, disuguaglianze, consumo responsabile, lotta contro il cambiamento climatico, pace, giustizia e partnership. Siamo nella zona gialla negli altri 10 punti, non abbiamo mai la zona verde, cioè il massimo del punteggio. Però concretamente, Giovannini, che cosa vuol dire questo? Cioè, allora, le iniziative vanno bene, sensibilizzano, creano materiale di lavoro. C'è qualcuno che mi scrive, ma chi l'ha fatto questo decalogo Miss Mondo, il mio sogno, la pace nel mondo? No, è una cosa seria. Creano materiale di lavoro, dibattito. Di solito si arriva anche a dei papers, diciamo un insieme di studi, però poi concretamente? L'Italia sta preparando la sua strategia per l'energia futura. Il ministro Calenda e il ministro Galletti l'hanno presentata in Parlamento e è verso una decarbonizzazione del nostro paese. Il ministro del carbone dell'India giorni fa ha annunciato che dal 2030 in India saranno bandite le macchine a benzina e diesel. Ma questo è solo un esempio. Oggi abbiamo trattato di due temi molto rilevanti, di cui trattate anche voi molto spesso. Il primo riguarda l'educazione. Se un bambino o una bambina non va all'asilo, ha l'80% di probabilità a 15 anni di non avere le competenze minime che gli studenti hanno in giro per il mondo. Se è andato all'asilo 2 anni, questa probabilità scende al 35%. Noi sappiamo che alcune regioni d'Italia gli asili sono praticamente inesistenti. Questo sono esistenti solo quelli privati che costano, parliamoci chiaro. Esattamente, e quindi può andare soltanto chi può pagare e dunque le disuguaglianze crescono. Il secondo tema che abbiamo trattato è quello della disuguaglianza nel far partire le nuove imprese. In Italia il 45% degli imprenditori non ha neanche la licenza liceale, il 45% ha la licenza liceale e il 10% ha la laurea. Negli Stati Uniti l'80% hanno o la licenza liceale o la laurea. Questo mostra, i dati che sono stati mostrati da Schivardi sono molto chiari, che spesso un imprenditore con grandi idee, giovane, non ha accesso al credito, non ha accesso alle opportunità per far partire la sua impresa, mentre magari il figlio o la figlia di un imprenditore possono continuare a gestire la famiglia anche se magari hanno meno competenze. Questi sono temi molto concreti di cui anche voi dibattete ogni giorno, perché le start-up sono il motore di una qualsiasi nuova economia. Sì, oddio, è vero, se però bastasse per avere accesso al credito bancario, Giovannini, la laurea o... No, naturalmente no. Nel senso, avremmo un'iscrizione alle vecchie scuole serali pur di avere il credito che le banche non vogliono dare, se fosse solo questo. Però ho capito benissimo quello che le dice. Io vorrei capire se poi queste diventeranno un'agenda politica, perché vede, per esempio, sul tema del... degli asili, dell'istruzione, io ne sento parlare tantissimo, qualcuno mi scrive il vero tema sono gli asili nido, non le materne, ho capito, però poi non vedo mai che diventino parte dell'agenda politica, che vuol dire soldi, poi fare le costruzioni, fare le scuole, no? Ha ragione, infatti il governo ha presentato a marzo una bozza di strategia per lo sviluppo sostenibile che dovrebbe affrontare esattamente tutto questo, e a luglio, insieme a tanti altri paesi di tutto il mondo, dovrebbe presentarla all'ONU. Abbiamo perso traccia di dove è finita questa strategia, proprio perché evidentemente ci sono dei conflitti tra i ministeri che magari hanno idee diverse su tanti temi, ed è per questo che una delle proposte dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, come hanno fatto già in Francia, in Germania e in altri paesi, è che questo tema sia appannaggio del Presidente del Consiglio e non di un singolo ministro, proprio perché serve quel peso politico di cui lei giustamente, a cui lei giustamente faceva riferimento, perché senza questo non ci sono finanziamenti e si rischia di restare appunto nelle buone intenzioni. Allora io spero che tutto questo lavoro e poi anche operativo diventi e si traduca in una pressione reale, concreta, cioè che i ministri, come, ma non questi ministri come spesso fanno i ministri, non vadano lì per dire un insieme di, passatemi in termini, delle volte ovvietà, e poi tutto resta lettera morta. Purtroppo, insomma, nel passato, l'esperienza del passato non mi fa essere ottimista, ma ringrazio comunque Enrico Giovannini e terminerà questa, il primo Festival Italiano dello Sviluppo Sostenibile terminerà appunto il 7 giugno. Vedo ancora molti messaggi su altri temi, molti commercianti mi scrivono sull'IVA. Allora, lei non ha mai visto prezzi calare perché non è mai calata l'IVA, però avrà notato come i prezzi non siano aumentati quando anche l'IVA è aumentata. Sì, questo è vero. Altri mi parlano della regola dei benedettini che prevede per i monaci un quarto di litro di vino al pasto, ho capito anche questo. Molti criticano, diciamo, il decalogo, i punti come troppo ovvi, troppo banali, troppo buonisti, troppo teorici. Staremo a vedere. Cosa vi devo dire? Anch'io sono, a forza di fare questo programma, scettico sulla differenza che c'è tra le dichiarazioni, le intenzioni in questo paese e i dati. Di fatto, noi ci sentiamo domani dalle 17 un po'. Radio 24, libera la voglia di fare.